Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Beh, quando si sentiva che tutti dicevano ma muoiono solo gli anziani, muoiono solo gli ammalati, io ho cercato di portare la testimonianza che non era proprio così, purtroppo. Alle 7 finisce il turno e io sono stremata. Non so quanto reggerò a tutto questo. Ieri in spogliatoio mi sono vista con una collega, con le lacrime pronte a scendere. Storie di infermieri e di posto di blocco in una puntata che si intitola 10 marzo. Io ho chiesto di cambiare le vostre radicate abitudini di vita, rimanendo a casa il più possibile, uscendo solo lo stretto necessario. La stragrande maggioranza di voi italiani ha risposto, lo devo dire, in modo straordinario. Quando ho adottato queste misure, che limitano anche alcune delle nostre amate libertà, ero consapevole che si trattava di un primo passo e ragionevolmente non sarebbe stato l'ultimo. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Era la sera del 9 di marzo del 2020. Oggi è il 10 di settembre, sono praticamente 6 mesi esatti da quella data. In realtà le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, quelle che abbiamo appena sentito, le pronunciò l'11, cioè un giorno dopo sostanzialmente. Ma quello che ci diceva era che dal 10 di marzo le cose sarebbero cambiate, perché poi avrebbe proseguito questo discorso dicendo che avrebbero chiuso tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, avrebbero chiuso i bar, i pub, i ristoranti. Ricordo la specifica in cui diceva rimarranno aperti i supermercati, quindi non ammassatevi a fare la spesa, perché già era successo a fine febbraio e ai primi di marzo. Non correte nei supermercati, ci sarà il cibo per tutti. Non successe, comunque le file ai supermercati, gli scaffali vuoti ci furono. È stato un momento davvero non solo inaspettato, ma di cui nessuno aveva mai avuto esperienza, quindi tutti quanti si domandavano e ci domandavamo che cosa sarebbe accaduto. Poi continuava: chiuderanno i parrucchieri, centri estetici, i servizi di mensa, ricordo che non garantiscono la distanza. Insomma, ricordo che io personalmente in quel periodo ero tornato a guardare la televisione, una cosa che, se non per dei casi specifici, lo sport o insomma dei film, non faccio più con una certa frequenza. Invece aspettavo i telegiornali per sentire le dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Sono sei mesi, ad oggi sembrano 6 anni, nel senso che sono successe tante di quelle cose in questi 6 mesi che davvero fa strano ricordarlo. E quindi noi oggi dedichiamo questa puntata a 2 storie che ci sono arrivate. Noi abbiamo la fortuna di avere una memoria storica data dalle vostre storie, cioè un archivio di quello che è successo e di quello che succede quotidianamente, davvero grazie a quello che ci scrivete, e quindi ve lo proponiamo, cioè vi proponiamo quello che è accaduto esattamente 6 mesi fa tramite le vostre voci. Il lockdown è durato 69 giorni per l'esattezza, dal 9 marzo al 18 di maggio del 2020. Poi in realtà il lockdown è stato più lungo di così, perché non si poteva uscire da certe regioni, non si poteva andare da una regione a un'altra, nella speranza che non succeda di nuovo, o quantomeno non così, nella speranza ovviamente che la convivenza sia pacifica con questo virus, che con cui dovremo andare a braccetto probabilmente per ancora diversi mesi. Spero non anni, comunque insomma non sono io la persona giusta per parlare di queste cose. Io forse sono forse la persona giusta per raccontarvi le storie che ci avete mandato. Quindi abbiamo una storia di una ascoltatrice che è stata che ha vissuto da dentro quello che è successo, perché è un'infermiera e ha tenuto una sorta di piccolo diario personale, e davvero attraverso le sue parole che ci raccontano cosa succede dentro al suo ospedale, cosa succede fuori a casa sua, al compleanno di suo figlio per cui prepara dei canederli perché lui gliel'ha chiesti, riviviamo una parte di quel periodo. E poi c'è un'altra storia che ci è arrivata da Ottavio, sempre un nostro ascoltatore, che racconta di quella fase precedente al 10 di marzo, quando solo un pezzo dell'Italia era una zona rossa, in Veneto e in Lombardia, vicino alla zona di Codogno, vicino a Piacenza, e lui può permettersi di fare uno scambio di abiti per il padre di una sua amica che è stato portato in un ospedale dall'altra parte, e la sua amica non può uscire da Codogno, quindi ci pensa lui, proprio buste piene di abiti da cambiare per l'ospedale, di qualche dolcetto e di qualche libro. Ripeto, cerchiamo di raccontarvi una fotografia di quello che è successo 6 mesi fa esatti oggi, che è il 10 di settembre, era il 10 di marzo, tutto cominciava, attraverso le storie. Cerchiamo di farlo come siamo abituati, cioè raccontandovi dei fatti, degli episodi, e quindi cominciamo da qui. Benvenuti a Linee d'Ombra. . 12 marzo, sento il bisogno di scrivere. 11 giorni fa tornavo da un meraviglioso viaggio in Messico e ora sono qui, immersa in questo incubo chiamato Covid-19. In pochi giorni siamo passati dal consiglio di evitare gli spostamenti ad essere costretti in casa. Negozi chiusi, aperti solo i generi alimentari, palestre chiuse. Proprio adesso che stavo iniziando a dimagrire. In ospedale si fanno varie ipotesi. Se l'emergenza continua dovrò andare a lavorare in terapia intensiva. Non ho mai avuto paura di fare il mio lavoro, ma non ho mai visto una situazione di questo genere. E da sola mi dico, andrà tutto bene. 13 marzo, è venerdì, ma i giorni in questo periodo sembrano uguali. Leggo ogni giorno i numeri, gli infetti, i guariti, i morti. In Veneto siamo a 40 morti, 7 a Treviso solo ieri. Al numero degli infetti non ci credo. Dovremmo fare tutti il tampone per sapere quanti ce ne sono, e non è possibile. 15 marzo, oggi è domenica, fuori c'è il sole. Ho saputo dai colleghi che il blocco delle sale operatorie è stato trasformato in terapia intensiva. Domani vedrò dove dovrò lavorare nei prossimi giorni. Sto pensando di non dormire più con mio marito per evitare di contagiarlo, ma non vorrei privarmi dei suoi abbracci. 17 marzo, oggi è martedì, sono tornata al lavoro. Tutti gli infermieri delle sale operatorie sono concentrati nella nostra sala operatoria perché le altre le stanno convertendo a terapie intensive. Una gran confusione, tanta gente tutta stipata nelle stesse stanze, alla faccia del Covid. Io nei prossimi giorni dovrò andare a lavorare in queste nuove terapie intensive aperte. La situazione si sta facendo veramente seria. Siamo a 27 decessi a Treviso. Il momento più difficile è stata la seconda giornata che ho lavorato in terapia intensiva, perché mentre nella prima giornata eravamo come personale in abbastanza, alla seconda giornata mi sono ritrovata in turno una notte con diversi pazienti e non mi sentivo ancora adeguata al ruolo. Abbiamo avuto un decesso, abbiamo avuto un'altra entrata e per me è stata molto dura, proprio a parte professionalmente anche psicologicamente. Questo paziente che è deceduto abbiamo messo tutte le sue cose in un sacchetto delle immondizie e chiuso dentro a dei contenitori dove non sarebbero state prima decontaminate e poi consegnate ai familiari, però questi gesti sono stati di una freddezza che mi ha proprio devastato. 20 marzo, ebbene sì, da domani inizio a lavorare in terapia intensiva con pazienti Covid. Un po' di ansia c'è, non voglio nasconderlo. Paura di non essere all'altezza, paura di non resistere 7 ore bardata, paura del virus. No, la paura del virus sinceramente no, io penso di essere già positiva e comunque opportunamente vestita non dovrei avere problemi. 23 marzo, oggi è il compleanno di mio figlio, farò la torta e i canederli su sua richiesta. Non si possono fare tante feste, ma qualcosa bisogna. Sabato ho cominciato a lavorare in rianimazione, è molto dura, io non ho le competenze. In media ci vogliono 2 mesi di affiancamento per lavorare e io ho avuto un pomeriggio. Domenica notte ero già in turno. Stanotte abbiamo avuto un decesso, un signore di 71 anni. Abbiamo chiamato i parenti e raccolto i suoi effetti personali in un sacchetto. Mi ha fatto molta impressione pensare che quest'uomo è arrivato 2 giorni fa dal pronto soccorso, raccogliere il portafoglio, l'orologio, il suo telefono, chiuderli tutti in un sacchetto. E poi via, non c'è tempo. Liberiamo velocemente il letto che arriva un altro paziente da Vittorio Veneto, stessa età, stessa patologia. Alle 7 finisce il turno e io sono stremata. Non so quanto reggerò a tutto questo. Ieri sera in spogliatoio mi sono vista con una collega e con le lacrime pronte a scendere ci siamo salutate. Finirà e andremo a ubriacarci tutti insieme. Oh, my name, it ain't nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest. I was taught and brought up there, the laws to abide, and that the land that I live in has God on its side. Oh, the history books tell it, they tell it so well. The cavalry's charged, the Indians fell. The cavalry's charged, the Indians died. Oh, the country was young with God on its side. Primo aprile, non finisco mai di stupirmi. Ormai sono 10 giorni che lavoro in rianimazione, sono quasi tranquilla. Certo, non è facile lavorare con la bardatura per tante ore. Arrivo a casa stremata, ma qualche paziente migliora, qualcuno esce dalla terapia e questo mi dà speranza. Ieri la caposala mi ha detto che sta programmando i turni fino a fine aprile e in un primo momento erano fino al 12, ma ce la farò. Nei giorni scorsi è mancata la mamma di un mio caro amico. Mi ha stupito la reazione di mio marito, che mi ha chiesto: ma è morta proprio di coronavirus? Chi non tocca con mano le persone che stanno male non pensa mai che possa accadere anche a te o alle persone che ti stanno accanto. Ma forse è meglio così. 3 aprile. Oggi sono un po' arrabbiata. Non ci fanno ancora i tamponi, una mia collega ha febbre e ancora non le fanno il tampone. Chiamo il mio rappresentante sindacale, mi dice che non li fanno perché non ce ne sono e ci stanno organizzando un nuovo test che si fa sul sangue. Dovevano iniziare mercoledì, ma inizieranno forse lunedì. Ma com'è possibile che noi abbiamo trasformato una sala operatoria in terapia intensiva in 24 ore? Io ho imparato a lavorare in rianimazione in tempo zero e il resto va a rallentatore. 6 aprile e si va avanti. Ieri pomeriggio ho lavorato e per la prima volta avevo una paziente che riusciva a parlare. A metà pomeriggio mi chiama, le chiedo che cosa ha bisogno e lei mi dice: sono tanto stanca, mi fai un po' di compagnia. Mi sono sentita un nodo alla gola. Mi racconta che ha voglia di vedere i suoi figli, si affatica subito a parlare, perciò cerco di parlare io. Le racconto dell'isolamento, del perché non può vedere i suoi figli, del sole che splende. Alla fine della nostra chiacchierata mi sembra più tranquilla. Stasera vado a fare la notte e spero che sia uscita dalla terapia intensiva. 9 aprile. Oggi è stata una giornata dura. Sono deceduti 2 pazienti in terapia intensiva e questo mi fa sentire inutile. Qualcuno comunque migliora. Ora abbiamo qualche posto libero. Speriamo stia finendo. In realtà della malattia tra di noi si parlava forse anche poco, perché la situazione, venivamo veramente martellati tutto il giorno da informazioni che tante volte non erano vere, tante volte non erano, per cui alla fine si cercava di parlare di cose molto più banali, di quei 5 minuti che si riusciva a parlare, si parlava di ricette di cucina o di cose molto banali, proprio per cercare di stare anche con i piedi per terra, insomma, legati alla realtà delle cose. 11 aprile. Oggi sono a casa. Ieri ho avuto un pomeriggio pessimo. Sono arrivata alle 14 e subito un decesso. Mi sono astenuta dalla preghiera di commiato, ma oggi siamo solo in 2, non religiose, quindi che facciamo? Ma sì, diciamo una preghiera, male non farà. Poi tutto il pomeriggio travagliato, messo un ECMO, una circolazione extracorporea assistita, da noi e uno nella sala accanto. Alle 19:30 un nuovo entrato, paziente con assoluta fame d'aria, difficile sopportare tutto questo. Oggi sono finalmente a casa per qualche giorno. Faccio le cose normali, spesa, grigliata in terrazza. Mi arriva un messaggio da una collega: grazie per aver condiviso questo periodo. Grazie a te, penso. Quante belle persone ho conosciuto in questo momento. Vorrei abbracciarvi tutte, ma ancora non si può. Monday finds you like a bomb. Titola 10 marzo la puntata di oggi. Oggi è il 10 di settembre, lo abbiamo già detto in apertura ampiamente. Sono 6 mesi esatti da quando tutto cominciava o tutto si bloccava, insomma, grosso modo è accaduto attorno a quei giorni, il 9, il 10, insomma, di fatto Conte poi parlò l'11, però noi abbiamo immaginato che il 10 marzo sia cominciato quasi per tutto il paese, per parti del paese, non era già cominciato prima, quello che è accaduto e che tutti quanti ormai ricordiamo e ricordiamo, in realtà siamo ancora vivendo, anche se fortunatamente in maniera più blanda, ed è per questo motivo che oggi in questa puntata abbiamo deciso di sentire la storia di Silvia, di farci raccontare anche dalla viva voce di Silvia com'è stata e com'è anche in questo momento. Pronto? Ciao Silvia, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto come stai Silvia adesso? Adesso bene, sono appena tornato dalle ferie, per cui sto bene. Ok, okay, quindi già il fatto che tu abbia fatto delle ferie mi conforta, nel senso che significa che insomma la situazione negli ospedali, così come ci raccontano, è tornata grosso modo a una forma di normalità, giusto? Sì, più o meno normale. Più o meno vuol dire che da quando siete tornati a respirare? Giugno, luglio? Beh, in realtà da fine aprile le cose sono tornate più o meno normali. Okay. Ma... quindi tu sei tornata in sala operatoria, giusto? Sì, io sono tornata in sala operatoria. Senti, c'è un passaggio della storia in cui tu dici chiaramente: mi ha sorpreso moltissimo quando mio marito, quindi la persona con cui vivo quotidianamente, quando ho raccontato a una persona che era mancata, mi ha chiesto: ma è morta davvero di Covid? Cioè, perché ti ha sorpreso? Perché la sensazione in quel periodo era che noi operatori sanitari avessimo ben chiaro quello che stava succedendo, o almeno eravamo veramente in prima linea, mentre per tutto il resto delle persone sembrava fossero racconti legati ad un altro mondo e non a quello che stava veramente succedendo. Era come se fossero notizie da un altro mondo quelle che arrivavano. Sì, sì, sì. Per alcune persone era tragico, stava finendo il mondo. Per altre non stava succedendo niente, stavamo guardando un film, ecco. Senti, tu a un certo punto parli di preghiera di commiato. Che cos'è? È una cosa che si fa in tutti gli ospedali? È qualcosa a cui partecipano solo come dire, le parti credenti del personale sanitario? Ecco, io non sono religiosa, sì. E per me è stata una cosa un po' difficile, nel senso che ci hanno detto che il vescovo ci aveva dato una preghiera da dire per le persone religiose, ma anche per tutti gli altri, insomma, per sostituire l'estrema unzione. Io da non religiosa mi sono sentita veramente in difficoltà i primi giorni, lo facevo fare naturalmente a chi era religioso, anche sì, per rispetto della persona. Nella giornata che non c'era nessuno di religioso l'ho fatto, giusto o sbagliato non lo so. Chiarissimo, chiarissimo. Senti, un'altra cosa invece più, come dire, tecnica. Tu quando tornavi a casa stavi con la tua famiglia, con tuo marito e tuo figlio, giusto? Avete un figlio? Sì, sì, due figli. Due, ok. Sì, ne abbiamo parlato, io ho deciso di non vedere più i miei genitori, i miei suoceri, insomma le persone più anziane, anche che mi sono vicine, più anziane, però con la mia famiglia sì, siamo rimasti insieme. Anche perché immagino che fosse difficile, no? Dopo ore come quelle tornare, dover stare di nuovo da soli per una notte intera o per una giornata intera. Sì, infatti io non ce la facevo, egoisticamente non ce la facevo, ne abbiamo parlato e abbiamo deciso di non farlo, insomma. Senti, come la vedi la situazione oggi? Tu ti tieni informata, guardi i numeri, ti guardi in giro, insomma, respiri un po' l'aria che c'è fuori dagli ospedali, hai timori, sensazioni particolari? Allora, io guardo soprattutto i numeri, mi sembra che in questo momento non ci siano grossi problemi, stiamo a vedere cosa succederà con l'autunno. Senti, in quanto tempo sei stata formata? È stata una formazione veloce, cioè dalla sala operatoria alla terapia intensiva, giusto? Quello è 24 ore. Allora, l'esperienza di sala operatoria ti permette di conoscere già i respiratori, di conoscere i farmaci, di conoscere tutta una serie di cose che ti aiutano in quella situazione. Poi c'erano i colleghi più anziani che ci aiutavano, insomma. L'ultima cosa, Silvia, poi ti ringrazio e ti lascio andare. C'è una storia in particolare, una persona, qualcuno che ti è rimasto nel cuore, che ricordi o che magari hai rivisto, non dico risentito, però rivisto, a cui ripensi, una famiglia, una persona? C'era una persona l'ultimo giorno che io sono stata in sala in rianimazione, che era un signore che aveva rischiato di morire, un signore abbastanza giovane, e io ho trovato il suo cellulare in un cassetto, l'ho acceso e insieme abbiamo chiamato la moglie, ed è stata una cosa che mi porto ancora nel cuore. Silvia, ti ringrazio molto per la storia che ci hai mandato, e anche, insomma, ringraziando te, ringrazio tutte le persone che fanno il tuo lavoro e che hanno lavorato in quel modo, in quel periodo. Grazie davvero, in bocca al lupo per tutto. Grazie. A presto. Ciao Silvia. Grazie mille a Silvia per queste pagine di diario, per questo racconto giorno dopo giorno di quei primi giorni così difficili e così drammatici. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linea d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'Ombra. Abitualmente quello che facciamo qui a Linee d'Ombra è partire da un nucleo narrativo, cioè da una storia che ci arriva da voi, direttamente al nostro indirizzo di posta elettronica, che vi ricordo essere lineedombra@radio24.it, e poi unire a quello un'altra storia che prendiamo in giro per il mondo, e quindi da persone che non conosciamo, che sono degli sconosciuti per noi e plausibilmente anche per voi, e che raccontano un'altra storia che però, come dire, sta bene insieme a quella che ci avete mandato voi. Oggi, per questa puntata speciale, per questa puntata che ricorda quello che è successo 6 mesi fa, abbiamo deciso di raccontare 2 storie che ci sono arrivate direttamente qui. Ce ne sono arrivate tante da voi direttamente in quel periodo, i diari della quarantena che vi abbiamo letto e raccontato per tutto quel periodo, da marzo, aprile fino a maggio. Oltre a quelli ci sono arrivate altre storie. Ecco, quella è una di queste storie. Arriva da quella zona che all'inizio era stata vista come il centro del contagio e guardata con molta diffidenza da chiunque ci passasse vicino, che era la zona di Codogno. Poi la zona di Codogno è diventata tutta l'Italia, cioè l'Italia è diventata Codogno in qualche modo. E inizia così questa storia. Ognuno era lì con la sua paura, a quella rotonda, sulla strada per Codogno, il 2 di marzo di quest'anno bisestile. I 2 carabinieri che presidiavano quel checkpoint improvvisato, io e il mio amico Mario e Alessandra, che comparve quasi come un fantasma in quel grigiore che aveva virato verso la pioggia da una mezz'ora. Le barriere erano messe in modo che era impossibile proseguire, e noi eravamo già parcheggiati da un po', perché a quell'appuntamento non volevamo farci aspettare. Ecco, inizia così. Seguiteci lungo le linee d'ombra. La zona rossa a Codogno era già stata istituita il 23 febbraio e da allora nessuno entrava e nessuno usciva, se non le ambulanze che cercavano ricoveri per mezza regione, perché sia gli ospedali di Codogno sia quelli di Lodi avevano le terapie d'urgenza sold out. Il papà di Alessandra aveva manifestato giorni prima i segni classici di una polmonite che era rapidamente peggiorata. fu un prelievo quasi coatto, perché le urgenze crescevano di ora in ora. Alla sua famiglia fu impedito di seguirlo, ma per un protocollo inspiegabile non fu caricato nemmeno quel trolley che era stato preparato in fretta e furia. Egidio, questo è il nome del papà di Alessandra, si trovò, così come era vestito in quel momento, a peregrinare con quella ambulanza per un ricovero che alla fine venne deciso all'ospedale di Voghera. Tamponi, prelievi e intanto cercavano di trovare una cura per quella polmonite che si dimostrava resistente ai farmaci classici. Le notizie erano frammentarie, primo per capire dove era finito, poi per la difficoltà a parlare con i medici che ormai correvano da un paziente all'altro. Quali che sono le sensazioni sono diverse. La preponderante fondamentalmente nelle nostre comunità è quella che si spera che i sacrifici fatti certo. in questi 15 giorni non siano stati vani e non vengano vanificati. Alessandra e sua mamma, confinate dalla quarantena che comunicavano col mondo, erano in un buco nero di preoccupazione. I morti cominciavano ad essere contati a decine, tutti i giorni. È quasi impossibile descrivere cosa voglia dire sentire un numero di ambulanze che corrono con una frequenza che ferma il respiro, ogni volta, per capire se il suono viene verso di te o si allontana. Io e Alessandra siamo nello stesso gruppo di scrittori, ci chiamiamo Volatori Rapidi, ma per fortuna di Egidio ci divide il Po. Per un mistero che ancora deve essere chiarito, quando Codogno venne blindata, infatti, Piacenza, che pur essendo a uno sputo di chilometri, non era ancora stata classificata zona rossa. Fu questione di giorni, poi anche noi imparammo la definizione di lockdown. La cosa brutta per una persona che scrive è che se anche le cose non te le raccontano, tu cominci comunque a rappresentartele in testa. E quindi ho cominciato a rappresentarmi Egidio, solo, senza la sua famiglia, appesa a un responso che tardava. Alessandra che cercava da psicologa di sostenere sua mamma e di trovare le parole giuste per parlare a suo figlio, al primo anno di elementari, a proposito del nonno che, vedrai, è così sportivo che guarirà senz'altro. Io potevo raggiungerlo, potevo muovermi, teoricamente però. Io ho perso la vista all'occhio sinistro e il destro è appeso a 3 diottrie e mezzo e a una situazione che potrebbe precipitare da un momento all'altro. Non guido, ed è il motivo per cui sono inabile al lavoro. Quindi il mio slancio di portare conforto a Egidio era appunto teorico. Ma il mio potere di convincimento sul mio amico Mario è sempre stato abbastanza alto. In quel caso non ho tribulato più di tanto. E così, eccoci qua. Perché questo è l'unico vero varco aperto per scambiarsi le cose. Ma lo sarà ancora per pochissimi giorni. Io ho una specie di mascherina seria che mi ha procurato mia moglie perché ormai scarseggia tutto. E ho anche una borsina del supermercato dove ho messo quel minimo sindacale, ripensando alle degenze infinite di mamma e papà prima della loro morte. Il formaggio grana a pezzi, i biscotti al burro e 3 tipi di scatole di dolcetti. Ho messo i libri che a casa mia non mancano mai. Ho messo anche una lettera di incoraggiamento. Alessandra scende dall'auto, parla brevemente con il carabiniere e poi si incammina con il trolley rosso che è l'unica botta di colore in quel grigiore. Ha paura di essere la più infetta di quel gruppo perché il risultato del tampone non è ancora pervenuto. Fa tutto secondo la consegna, lascia il trolley al varco, fra i jersey e poi fa un piccolo cenno di saluto. Stamattina c'è stato un assalto per le mascherine da mucchina che è finita in un secondo. Adesso siamo riusciti ad ordinarne qualche pezzo. Le mascherine arriveranno perché comunque questa adesso è un'area che i magazzini cercano di fornire in primis. Io ho come l'impressione di sentire il suo esercizio quotidiano di trattenere le lacrime e lascio andare le mie, che ancora non hanno quella necessità. Il mio amico Mario, in uno slancio di prudenza, ha messo nel baule un sacco della spazzatura dove mi dice di mettere il trolley, convinto che i virus spalmati sopra debbano essere almeno confinati. Mentre stavamo arrivando abbiamo saputo che il papà, risultato negativo al primo tampone, è stato rapidamente evacuato da Voghera, che si sta riempiendo di infetti, per isolarlo, pensando di avere a che fare con una polmonite molto grave. Ora è all'ospedale di Varzi, sull'Appennino Pavese, 100 chilometri, chilometro più, chilometro meno. Io non ho problemi con Mario al volante. Ormai piove fisso senza sosta e smette soltanto quando scendo dall'auto nel parcheggio semideserto dell'ospedale di Varzi. Trovo indicazioni in una guardiola annoiata che non mostra ancora la tensione della pandemia. Io ormai apro le porte come nei telefilm ospedalieri e a furia di spalmarmi di gel rischio di fare cadere la mia borsa delle meraviglie. Egidio, il papà, quando mi vede arrivare, mi guarda con un'espressione che va al di là delle mutande pulite. Ed è come se si stupisse di un coraggio di cui io non sono assolutamente consapevole. Mi guarda con una riconoscenza imbarazzata e comincia il suo racconto dove la negatività al primo tampone è l'unica notizia positiva, perché è viva dentro di lui la consapevolezza che non vedrà la sua famiglia per un bel pezzo. Io cerco di sostenerlo e, non sapendo che anch'io sarò a breve confinato come tutta Piacenza, gli lancio la possibilità di ritornare a trovarlo. Ci beviamo un caffè al bar dell'ospedale con Mario e sarà l'ultimo bevuto in una tazzina che non siamo uso. Torniamo evocando tutti i posti e tutti i chilometri che abbiamo fatto per lavoro e facciamo quasi una gara a chi ha più ricordi per tutti i paesi che passiamo. Più tardi Alessandra mi telefonerà per ringraziarci e sentire notizie dirette di suo papà e mi dirà una cosa bellissima. Mio papà, mi dice, mi ha raccontato tutte le cose che ha trovato nella borsa, quella che gli hai portato tu, e gli sembrava di essere un bambino il giorno di Santa Lucia. I was staring at the sky, just looking for a star, to pray on or wish on or something like that. I was having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew was a hopeless to be had. But then the dove of hope began its downward slope, and I believed for a moment that my chances were approaching to be grand. But as it came down near, so did a weary tear. I thought it was a bird, but it was just a paper bag. Hunger hurts and I want them so bad. Oh, it kills, 'cause I know wanna clean up. I got to focus. These hands are too shaky to hold. Hunger hurts, but starving works when it costs too much to love. Ecco, questa storia, che è una storia che parla del fuori, se la prima che vi abbiamo raccontato aveva a che fare con il dentro gli ospedali, quella di Ottavio, che ci è arrivata al nostro indirizzo, ci raccontava invece cosa c'era fuori, quando c'era un fuori e quando ancora appunto tutta l'Italia non era zona rossa, come è accaduto poco dopo, evidentemente poco dopo che Ottavio aveva scritto questa storia. Lo ringraziamo per avercela mandata, per aver chiuso un pochettino il cerchio di questa puntata così particolare. Ora diamo la linea alle strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale, la storia di Antonio Cocco e della Legione Straniera. Linee d'ombra. Stiamo continuando questo viaggio insieme a Antonio Cocco, è un viaggio che sta intraprendendo Mauro Pescio per noi attraverso la vita, la storia, la famiglia e i familiari di Antonio Cocco. Antonio Cocco era un giovane uomo, aveva 18 anni, frequentava la terza ragioneria a Venezia a metà del secolo scorso, era il 1952-53. 52 per esattezza. Prende un brutto voto a scuola, decide di partire e si ritrova veramente in un giro di giorni nella Legione Straniera. È una scelta che fa quasi forzatamente, in maniera quasi coatta. Il governo italiano poi reclamerà con il governo francese, perché questa cosa non è accaduta una volta sola. Spesso e volentieri dei giovani italiani si sono trovati di fatto turlupinati e quasi costretti, parlo di quegli anni, parlo degli anni 50 e 60, a entrare nella legione straniera con la minaccia che altrimenti avrebbero dovuto farsi del carcere, e quindi senza sapere a cosa andavano incontro questi giovani accettavano, si arruolavano e si trovavano in questo inferno, in un inferno in cui all'epoca la Francia si trovava in Indocina, in Vietnam, a combattere su quei territori che erano su una sua colonia, e però i Vietcong erano insorti e volevano liberare la propria terra dai coloni francesi, e quindi i francesi mandavano queste truppe, mandavano dei legionari, tra cui Antonio Cocco, un ragazzino di 18 anni che da Venezia si ritrova prima in Francia, a Marsiglia, poi in Algeria ad addestrarsi, e davvero in pochissimo tempo in Indocina. È una storia travolgente quella che racconta Antonio, è una storia che noi abbiamo trovato grazie all'archivio idealistico nazionale di Pieve Santo Stefano, che ha pubblicato questo libro che si chiama La Ridotta Isabelle. È un epistolario, sono lettere che Antonio scrive in continuazione dall'addestramento da Sidi Belabbes, dall'Algeria e poi anche dal Vietnam, e scrive a tutti, scrive ai fratelli, sono una famiglia, sono 10 figli la famiglia Cocco, scrive al padre. E qui in questo episodio della nostra storia seriale scrive a un amico, scrive a questo amico che si chiama Giorgio, ed è nettamente più sincero rispetto al padre, parla da ragazzo a ragazzo, mentre nelle altre lettere parla da figlio a padre con l'autorità e l'autorevolezza che avevano evidentemente i genitori in quegli anni, qua è più schietto, e c'è una cosa che è davvero struggente nelle parole di Antonio, ed è la sua richiesta di ricevere delle lettere da tutti. Lo sentirete alla fine di questa lettera, lui dice al suo amico ti ho scritto questa lettera e te la scrivo dovendo per forza tagliare delle cose, perché altrimenti verrebbe censurata, tu però puoi scrivermi quello che vuoi, ti prego scrivimi, anche se devi scrivere un legionario, scrivimi. Gli racconta quello che vede, gli racconta anche delle cose piacevoli, gli parla della bellezza dei villaggi africani, e poi gli parla dell'Indocina, e c'è già nella sua voce, già nelle sue parole, la sensazione che non ce la farà, che quando andrà in Indocina, in quella battaglia, c'è una descrizione delle donne vietnamite, delle combattenti vietnamite, che è buffa, perché appunto è chiaramente falsata da un'ideologia militare, che sentirete direttamente nelle sue parole. Insomma, continuiamo il racconto della storia di Antonio Cocco, di un ragazzo che si trova in un battito d'ali nella legione straniera, e da lì in Vietnam. No, quello più incredibile è veramente, al di là di certi errori, è la sua scrittura, il racconto, il ritmo e la capacità di usare toni diversi quando si rivolge al padre, che ne parla da uomo a uomo con un tono grave, no? Quando si rivolge a Gianni, più piccolo, spensierato, parlandogli della giungla, delle cose. Il racconto resta vivo così. Cioè, se un ragazzo che faceva il terzo anno di ragioneria scrive in certi momenti un reportage di guerra e in altri un racconto intimista. Caro Giorgio, in compenso però a tutte queste privazioni e alla vita militare rigidissima che si deve condurre, ho la soddisfazione di visitare il mondo. Francia, Africa, poi andrò in Arabia, in India, in Indocina. Ti sembra poco? Sino all'estremo oriente, mentre voi dovrete marcire in Italia. Ci marcirei volentieri anche io, però. Questo naturalmente è detto in confidenza. Credo sia tempo di dirti com'è andato sin qui in poche righe. La prima cittadina in cui ho alloggiato con i ferri e i polsi in Francia è Modane. Non ti dico quel che ho dovuto subire per passare il confine clandestinamente. 28 ore di marcia, tra cui 6 in un nevaio, di notte, con le scarpe da ballo e il vestitino estivo, braccati dalla finanza che ci sparava dietro e con la fifa dei lupi, essendo lì un posto molto frequentato da quei disgraziati. Ti sembra di vedere due poveri esseri pieni di freddo, sperduti nella neve sino alla cintola, uno dei quali, Paolo, stava molto male, con attorno l'ululato dei lupi e qualche colpo di fucile. Meglio che non ci pensi. Da Modane ci hanno sbattuti a Chambéry, siesta di 1 o 2 giorni, poi a Lione, altra tappa di 5 giorni, da lì siamo andati a Marsiglia e ci siamo rimasti più di una settimana. Questo è stato il periodo peggiore della mia carriera legionaria, perché ho dovuto lavare piatti, gavette, pavimenti, scale, insomma fare il servo al più bifolco dei legionari. La vita è un po' cambiata quando mi hanno spedito in Africa. Il viaggio in nave è stato molto interessante. Ho avuto occasione di vedere il mare in burrasca, pescecani, delfini, alcuni pesce spada, pesci volanti e altri pesci che non avevo mai visto. Sbarcai a Orano, Algeria, e di lì mi sbatterono a Sidi Bel Abbes. Qui mi hanno dato il corredo da legionario e ci sono rimasto per una settimana. Se Dio vuole, insomma, da 3 giorni sono qui a Saida, 350 km circa dalla costa, con un caldo da matti. Mi hanno dato fucile e giberna ed è iniziata l'istruzione, che durerà circa 7 o 8 settimane. Non lo sa ancora Tony, ma la preparazione fondamentalmente consiste in estenuanti marce, in condizioni difficilissime, per portare allo stremo il fisico e la testa, in privazioni e punizioni esemplari. Il tutto teso a portare i legionari a convincersi che il valore è solo nell'azione, nel modo in cui si combatte e si muore, e non nelle ragioni per cui si combatte. Sradicato dall'ambiente in cui è cresciuto, privato dei legami familiari, il legionario deve dimenticare il richiamo alla normalità per diventare il soldato più confacente alle esigenze belliche. Dopodiché io farò 3 mesi di preparazione per paracadutisti e poi spedito in Indocina per rimetterci quasi sicuramente la pelle. Ho poche probabilità di cavarmela una volta tra quella gente semiselvaggia, ma ben addestrata e altrettanto armata. Raccontava un legionario che la gente che sono più da temersi sono le donne, una razza selvaggia, sterile, che vivono nelle foreste nude e crude, solamente con un coltellaccio. Sono tanto barbare che si ha l'ordine di non farle prigioniere, ma di ammazzarle sul luogo. Ho fatto anche domanda di paracadutista perché sono bene pagati e mangiano bene. Tutto sommato spero però di andare presto in Indocina, perché d'Africa ed africani ne sono stanco. Vedrai quando ti spedirò delle foto dei villaggi africani, che carini che sono. Ho fatto lo sforzo di scriverti, però cerca di contraccambiarlo, anche se dovrai scrivere ad un legionario. Mi faresti un enorme piacere. Scrivi pure liberamente, perché qui le lettere che non passano sono solo quelle che escono, perciò tu capisci certe cose che non ho potuto scrivere. Scrivimi tutti gli indirizzi che puoi, perché vorrei rimanere in contatto con te e gli amici per tutti i 5 anni che dovrò rimanere nella legione. Ciao, baci, Tony. I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. And when we're bored we play in the woods, always on the run from Captain Hook. Run, run, lost boy, they say to me, away from all of reality. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Continuiamo a raccontare le vostre storie, quindi mandateci la linea d'ombra @radio24.it. Grazie a Mauro Pescio che raccoglie questa storia, grazie alla famiglia Cocco, grazie all'archivio dei diari. Io vi ricordo che se avete voglia potete anche mandarci una vostra storia legata a una linea d'ombra che state attraversando in questo momento preciso. Potete mandarcela con un messaggio audio WhatsApp al 331 57 55 721. Abbiamo scelto questa doppia possibilità, potete mandarcela scritta, soprattutto se è una storia che vi è accaduta nel passato, quindi avete avuto modo di elaborarla, oppure se ci state dentro adesso, se è un momento complicato in cui avete quella linea d'ombra davanti o proprio sotto i vostri piedi, bene, mandateci un audio e raccontateci cosa state vivendo, un paio di minuti. 331 57 55 721, la linea al GR. Noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it